sono buono a colpirla con pugno. Anch'io! Cos'è che io la metto avrò fatto tipo 7 tiri, forse uno è andato bene. Io mi sono stirato qui a giocare, qui, ma io tipo la tiro a giro. Ma com'è? Cos'è questa qua? Tipo la devi tirare, prendi la palla, ci sono due squadre, cosa devi fare? Con la palla, la devi far toccare. Ma io l'ho tirato qui. La devi far toccare sul muro.